Antonio, vuoto Antonio, vuoto Antonio, italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Una buona giornata, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e benvenuti a Vota Antonio, la trasmissione con la quale ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete cambiare la politica con la rete, come appunto la politica sta cambiando anche di fronte all'arrivo di questi nuovi mezzi di comunicazione. Oddio, nuovi mica tanto, insomma, ci sono da un po', però forse la politica italiana alla fin fine li sta scoprendo adesso. È una puntata speciale, lo sentite che è un audio strano, no? Che non è quello dello studio solito questo, è l'audio del nostro studio in piazzetta Pasi a Trento, dove si sta svolgendo il Festival dell'Economia. Il tema di quest'anno è sovranità e conflitto, in parte affronteremo anche questo tema, il tema della sovranità e del conflitto che conduce, può condurre, conflitto tra sovranità, riemergere del nazionalismo. Ebbene, è appena uscito di recente un libro interessante, si intitola Il web nero, sul comportamento delle organizzazioni di destra in rete, di estrema destra naturalmente, come si organizzano e come dialogano in rete. Una bella analisi del fenomeno, edita dal Mulino. Parleremo con una delle due autrici. Ci occuperemo anche grazie ai nostri amici di Voices from the Blogs, anzi partiremo proprio da là in questa settimana nella quale non ci sarà Stefano Folli, il consueto appuntamento con Stefano Folli. Partiremo da questo, una bella analisi sulla fiducia dei cittadini, visto che al Festival dell'Economia siamo, sull'uscita dalla crisi e su chi può aiutarci ad uscire dalla crisi. E poi ci occuperemo di pubbliche amministrazioni ed utilizzo dei social network. Naturalmente siamo in arretrato, nemmeno a dirlo rispetto a molti altri paesi, però c'è qualche bel esempio e qualche esempio di eccellenza. Non a caso siamo qua, uno di questi è proprio la provincia di Trento e ospiteremo il presidente. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci qua in questa puntata speciale che trasmettiamo dal Festival dell'Economia di Trento, da Trento, dove si svolge il Festival dell'Economia. E proprio per questa puntata abbiamo chiesto ai nostri amici di Voices from the Blogs, che è un progetto, lo ricordiamo sempre, dell'Università Statale di Milano, con il quale si cerca appunto di analizzare il sentimento della rete, il sentimento di internet e di Twitter in particolare, con un metodo che mescola l'intervento umano con un algoritmo. Ebbene, abbiamo chiesto ai nostri amici di Voices from the Blogs di darci un quadro su quello che succede, qual è il sentimento in rete in merito alla crisi e alla fiducia nei confronti degli attori che questa crisi potrebbero risolverla. Giuseppe Porro di Voices from the Blogs, buongiorno. Buongiorno a voi. E che insegna all'Università dell'Insubria. Cosa vogliamo iniziare? Dal futuro del paese? Come chi sta su Twitter vede il futuro del paese? Direi di sì. Quello che abbiamo indagato è appunto l'opinione, il sentimento della rete circa le prospettive del paese segnato dalla crisi economica, e quello che abbiamo registrato senza sorpresa è il fatto che la larga maggioranza degli italiani vede nero sul futuro del paese, un po' per questioni di crisi economica, un po' per questioni di disoccupazione. Qualcuno, circa il 20%, vede il paese segnato comunque dal declino, qualcuno manifesta sentimenti di forte timore, circa il 12% dei messaggi. La cosa che però vorrei sottolineare è che rimane, anzi rispetto a nostre indagini precedenti è un dato in crescita, lo zoccolo duro degli ottimisti, di quelli che vedono il paese o che vogliono vederlo a tutti i costi in ripresa, che vogliono vedere la fine del tunnel, che ammontano a quasi il 30% dei messaggi. Tra l'altro è interessante perché c'è una differenza tra quando si chiede oppure quando si cercano, no, dei tweet che parlino del futuro del paese e quelli che parlano del futuro proprio e della propria famiglia. In realtà qua il numero di ottimisti cresce. Certamente, cresce supera il 40%, il 40,5% dei post a indicare positività, ottimismo. Va anche detto per la verità che nella stessa classifica cresce anche la percentuale di quelli che esprimono sentimenti di timore, sono oltre il 36%. Significa di fatto che quando si parla di sé o della propria famiglia rispetto a quando si parla del paese, i sentimenti sono maggiormente estremizzati, insomma la distribuzione è più polarizzata. Sì, e però diciamo anche che il timore, la paura non sono necessariamente un sentimento di pessimismo o necessariamente negativo, no? Alla fine è solo... Non sono sentimenti catastrofisti, ecco, sono segni di catastrofismo, questo sicuramente no, sono segnali diffusi di preoccupazione sul fatto che il futuro riserverà ancora una serie di problemi come l'ha fatto negli anni passati. Bene, e veniamo agli attori di questa crisi, quindi la politica, le istituzioni in genere, le imprese, i sindacati, insomma quelli che dovrebbero agire per rimuovere la crisi o collaborare alla rimozione della crisi. Da questo lato i tweet che avete analizzato che cosa dicono? Qui abbiamo stilato la lista dei buoni e dei cattivi. Nel senso che abbiamo preso i tweet che dicono da chi ti aspetti un aiuto per uscire dalla crisi e i tweet che dicono da chi proprio non ti aspetti un aiuto per uscire dalla crisi. Bene, nella lista dei buoni l'interlocutore più citato è la politica, il 42,5% delle volte. Il punto è che la stessa voce, la politica, è citata anche nell'elenco dei cattivi, questa volta il 79% delle volte. Quindi complessivamente il bilancio della politica non è certamente positivo. Al contrario, le imprese e i sindacati compaiono soltanto nella lista dei buoni, cioè nella lista dei soggetti da cui ci si aspetta un aiuto per uscire dalla crisi. Le imprese con una percentuale del 28,8%, i sindacati con una percentuale del 10,2%. Entrambe le voci non compaiono con valori statisticamente significativi nella lista dei cattivi. Sostanzialmente l'opinione pubblica si fida di più, almeno sembra, degli attori del mercato del lavoro, forse della loro autonomia negoziale, rispetto alla politica, alle istituzioni politiche o alle persone che amministrano, che governano queste istituzioni. Infine veniamo a un classico indicatore, anche se visto in maniera lievemente diversa, che è quello, se così possiamo dire, di fiducia. In realtà è sono le risposte ad un'implicita domanda, no? In questi tempi di crisi, di chi ti fidi? Ti fidi o no, certo. Sì. E che cosa ne esce? Beh, una conferma del dato precedente, nel senso che l'indicatore di sfiducia nella politica supera il 70%. Devo però dire che in indagini precedenti questo indicatore aveva raggiunto anche superato il 77% nel dicembre scorso, quindi non è il dato peggiore. In compenso, sia le imprese che i sindacati registrano un tasso di fiducia piuttosto elevato, le imprese raggiungono il 62,3%, il sindacato il 63%, a conferma di quanto dicevamo in precedenza, cioè ci si fida di più di questi attori, di questi interlocutori, di quanto non ci si fidi della politica. Ecco, interessante che ancora meno che della politica ci si fida dei media e dei giornalisti, insomma, giusto per non tacere nulla lo devo dire, insomma, qua siamo. Ti fidi dei media? No all'80%, sì al 15,6%. Oddio. Naturalmente ci auguriamo che questo non sia rappresentativo dell'opinione degli ascoltatori di Radio 24. No, speriamo di no, sicuramente. Che lettura ne date? Ma ci sono diverse ipotesi di lettura di questo dato. Una possibilità è che l'opinione pubblica non creda alla indipendenza dei mezzi di comunicazione, indipendenza rispetto alla politica, e quindi così come non si fida della politica, per le stesse ragioni e più o meno nelle stesse percentuali, non si fida di quello che sente alla radio o alla televisione oppure che legge sui giornali. Oppure può trattarsi di una obiezione mossa agli operatori del settore, ai giornalisti che possono essere visti per varie ragioni come una parte della casta. Grazie, grazie anche per questa settimana agli amici di Grazie Voices from the Blogs, grazie a Giuseppe Porro, insomma torneremo a sentirli naturalmente la settimana prossima, intanto insomma un po' di dettagli li trovate anche sul nostro sito www.radio24.it oppure c'è il loro sito www.voicesfromtheblogs.com. Adesso noi parliamo di pubbliche amministrazioni in rete, insomma come vanno, come si muovono, insomma ne parleremo tra poco anche con un rappresentante delle pubbliche amministrazioni, ma intanto ci facciamo dare un quadro perché nell'ambito del forum PA, del forum sulla pubblica amministrazione che si è svolto a Roma, è stata presentata una ricerca proprio su questo, realizzata da Giovanni Arata, che è un ricercatore che collabora col centro Nexa del Politecnico di Torino e al quale diamo il buongiorno. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, che cosa emerge? Come sono messe sui social network le nostre pubbliche amministrazioni? Diciamo che quello che emerge è sicuramente un quadro in chiaroscuro, nel senso che ci sono con riferimento alle amministrazioni locali come a quelle centrali ci sono sicuramente punte di eccellenza, ma ci sono delle sacche pronunciate di ritardo nell'uso dei media sociali. La ricerca riguarda in particolare Facebook e Twitter. Il livello medio è basso. Il livello medio è basso. Ci sono delle punte di eccellenza? Iniziamo da queste, poi magari andiamo sulle punte più basse. Certo, ci sono delle realtà che fanno estremamente bene, poi parleremo con la provincia di Trento. La provincia di Trento, per esempio, nella categoria provincia è una di quelle che meglio lavora in maniera transpiattaforma, quindi seguendo piattaforme diverse. Ci sono realtà comunali come i comuni di Torino, per esempio, o di Milano che fanno estremamente bene, e ci sono anche strutture a livello centrale, per esempio il Ministero dei Beni e Attività Culturali fa uno straordinario lavoro tanto su Twitter come su Facebook oramai da molto tempo. Il punto è che tipo di lavoro si fa, no? Perché guadagnare follower su Twitter o like, mi piace su Facebook sono buoni tutti alla fine, no? Basta vivere in una città grande, insomma, no? E anche solo per tenerti in contatto con la tua amministrazione, magari una cliccata sul follow o sul like la dai. Il punto è come questi mezzi vengono utilizzati. Ecco, dal punto di vista qualitativo, che cosa ci puoi raccontare? Il primo dato, quello più evidente, che riguarda la larga parte delle amministrazioni studiate, è che gli spazi social sono vissuti come una continuazione dell'ufficio stampa con altri mezzi, o detto in altri termini, si usano i social, in maniera unidirezionale, e si sparano dei messaggi, quindi la dimensione di dialogo viene sicuramente sottoimpiegata. Ci sono però anche delle situazioni all'interno delle quali la dimensione di dialogo, penso alle mention banalmente, piuttosto che ai retweet di Facebook, piuttosto che di Twitter, piuttosto che su Facebook, l'apertura delle bacheche ai commenti dei cittadini o la collaborazione con essi trovano più spazio. Qualche esempio in particolare che ti venga in mente? Per esempio, diciamo così, in termini di emissione evoluta, penso agli episodi, ai casi di live tweeting che vengono praticati da realtà grandi, il Consiglio regionale del Piemonte, ma anche da comuni, il comune di San Giovanni Teatino, se non vado errato, è un comune di medie dimensioni che fa live tweeting, e altri ve ne sono. In termini di rapporto con i cittadini, appunto, è là che registriamo le difficoltà maggiori, nel senso che quella che è la capacità di ascolto e quindi per esempio di fare URP online, raccogliere online le istanze dei cittadini e servirle attraverso la propria attività amministrativa, bene, questa è parecchio meno impiegata, con una notevolissima eccezione, le emergenze. Durante le emergenze abbiamo visto, per esempio, su questo, durante il aspetta, aspetta, aspetta, Giovanni, ti fermo perché abbiamo una pausa, ci ritroviamo subito dopo e torniamo su questo argomento perché ti voglio chiedere anche dell'utilizzo di account personali in questi casi. Abbiamo L'esempio è il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che quando ci sono stati, insomma, quando c'è stato quell'incidente alla metro a Milano, ha usato anche il suo account per fare questo lavoro. Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Allora, con Giovanni Arata, ricercatore, collaboratore del centro Nexa del Politecnico di Torino, per parlare di pubbliche amministrazioni e utilizzo dei social. Eravamo rimasti sul tema dell'utilizzo dei social network durante le emergenze, Giovanni. Esattamente, sono una delle situazioni nelle quali meglio emerge la capacità di dialogo e anche di, diciamo così, intercettazione delle istanze cittadine da parte delle amministrazioni. E anche qua ti chiedo qualche esempio. Diciamo così, già durante l'allerta meteo che riguardò le regioni Liguria e Piemonte, un paio di anni fa, vi fu da una parte l'emergenza dal basso attraverso l'attività di cittadini e istituzioni insieme di hashtag condivisi per meglio coordinare le attività e poi un presidio costante da parte delle amministrazioni. Però forse il caso più compiuto è quello del terremoto in Emilia dello scorso anno. In quel frangente il comune di Bologna, per esempio, alle 4:30 di mattina stava rilanciando le indicazioni della protezione civile su come comportarsi in caso di terremoto. E dopodiché il comune di Bologna, ma tanti comuni e tante amministrazioni si sono fatte piattaforme di servizio per riprendere, coagulare e rilanciare le informazioni che i cittadini davano. E magari anche per rispondergli nei casi migliori. E in quei casi anche per rispondergli esattamente. Grazie a Giovanni Arata per essere stato con noi, per averci dato questo quadro e buona giornata. Buona giornata a lei e agli ascoltatori. Dunque, abbiamo sentito da Giovanni Arata, insomma, come vanno le pubbliche amministrazioni sui social network. C'è qualche buon esempio che inizia a circolare, qualche best practice, come si dice, come si dice in inglese. Tra queste best practice c'è la provincia di Trento, come avete sentito da Arata. E siamo col presidente Alberto Packer. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io vorrei affrontare, al di là, insomma, naturalmente dei complimenti, no? Perché spesso in questa trasmissione ci occupiamo anche di questo, di quanto le pubbliche amministrazioni e anche i politici riescono ad avere una relazione con i cittadini, un rapporto con i cittadini tramite i social network, senza utilizzare questi come un comunicatificio, per così dire, insomma, no? Una semplice diffusione del proprio pensiero. Appunto, al di là degli ovvi complimenti, vorrei capire un attimo, insomma, come si struttura questa vostra presenza e appunto come la leggete voi, insomma, perché siamo evidentemente da questo punto di vista per le pubbliche amministrazioni una sorta di vigilia di una grande rivoluzione, forse ci siamo dentro in pieno. Ma dunque, noi abbiamo cercato nel costruire, diciamo così, la posizione, il radicamento della provincia su questi social network, su queste nuove metodologie di comunicazione, di informazione, abbiamo cercato di evitare quello che a noi sembrava un errore, un possibile errore. Appunto, il primo era di pensare a questi canali come dei canali di comunicazione verso l'esterno. Invece noi pensiamo a questi soprattutto come a una porta di ingresso dall'esterno verso la pubblica amministrazione, cioè non è che il sito, la pagina Facebook, Twitter, YouTube, non è che servono per comunicare delle cose all'esterno, ci servono soprattutto per consentire l'accesso da parte dei cittadini ai dati, alle informazioni, alle occasioni che pure insomma ci sono all'interno. Quindi insomma è una delle porte d'accesso della pubblica amministrazione, abbiamo cercato di impostarla in questo modo. Anche tenendo conto, e questa è la seconda, diciamo così, convinzione che ha un po' ispirato questa decisione, di non pensare che questo possa essere una dimensione sostitutiva della partecipazione. Ecco, un conto è l'accesso, l'accessibilità, la trasparenza, l'informazione, un altro conto è la partecipazione, perché alle volte si corre anche il rischio di pensare che l'uso dei di questi canali, l'uso dei social network, voglia dire automaticamente partecipazione. Mm. Ecco, abbiamo cercato di tenerci in equilibrio tra questi due punti, insomma. Questo è interessante, e però sicuramente sono dei mezzi che appunto favoriscono la partecipazione. Quello che vorrei capire è se li usate anche come una sorta di termometro politico, per così dire. Termometro politico, quando parlo di politica in senso alto, insomma, e quindi come termometro anche per tarare certe decisioni, per vedere come reagiscono i cittadini. Naturalmente non può essere, come diceva lei, sostitutivo integralmente, no, di quello che fate sul territorio. Del resto, poi, in un territorio tutto sommato piuttosto piccolo, probabilmente, no, il sì, contatto diretto resta ancora fondamentale. E però lo usate anche come termometro? Sì, sì, certo, certo che sì, nel senso che la pagina Facebook, piuttosto che i ritorni che si hanno su Twitter, su questi social network, diciamo così, più immediati, sono comunque degli indicatori. Lei ha detto bene, la dimensione del nostro territorio naturalmente facilita il fatto che possano esserci tanti canali, no, di interlocuzione, tanti sensori, insomma, no, che vanno da un associazionismo molto diffuso ad una capillarità anche di presenze istituzionali. Quindi, insomma, ci sono davvero tanti sensori, come dire, piantati nel corpo sociale della nostra comunità. Però questo è uno strumento che dà risposte davvero in tempi molto veloci, quindi si ha la possibilità, noi l'abbiamo visto in occasione di particolari iniziative, particolari progetti, ne cito uno per tutti: il nostro piano per lo sviluppo sostenibile del Trentino, un patto che abbiamo costruito insieme a tanti interlocutori organizzati, ma anche attraverso dei momenti dedicati in cui abbiamo interloquito con davvero migliaia di persone che hanno avanzato delle proposte, avanzato delle critiche anche a volte sul documento di base, e questo ci ha permesso davvero, in un lavoro continuo attraverso centinaia e centinaia di contatti, anche di modificare questo strumento. Quindi davvero in tempi molto funzionali, ecco, anche a una amministrazione che cerchiamo, insomma, che riesca a mantenere delle scadenze, no? Quindi a darsi dei ritmi di operatività. Perfetto, quindi diciamo ancora una volta è l'unione delle due cose, naturalmente, sì, no? Il lavoro sul territorio e il lavoro sulla rete. Per fare il lavoro sulla rete un'amministrazione ha bisogno evidentemente che ci sia un'infrastruttura sul territorio, sì, e da questo punto di vista voi siete messi piuttosto bene. Beh, insomma, sì, allora la provincia ha ancora da alcuni anni, come dire, puntato molto sulla infrastrutturazione del territorio. Sono stati stesi quasi 800 chilometri di fibra ottica che raggiungono ogni comparto del Trentino, diciamo le dorsali in fibra ottica, e questo lo si è fatto puntando anche su una considerazione legata alla particolare orografia del nostro territorio, che è un territorio non molto esteso in termini, però difficili orograficamente. Dunque, per ampliare anche le opportunità di chi vive anche nelle zone più periferiche, ci sono aree del Trentino che distano un'ora e mezza di macchina dal capoluogo, insomma. Allora abbiamo cercato di portare lì dei canali, appunto questi telematici attraverso la fibra ottica, che permettano di poter anche pensare a una economia diffusa sul Trentino. Guardate che qualche ritorno lo abbiamo già, abbiamo dei piccoli per ora esempi di piccole realtà cooperative anche in zone molto decentrate, che grazie a queste infrastrutture riescono a restare lì e quindi a evitare anche forme di spopolamento, che pure è un rischio che la montagna corre sempre. Oltre al cioè fatto un modo che per sentirsi connessi al centro, per così dire. Eh sì, perché il nostro vero problema era, noi abbiamo dei ragazzi, pensiamo soprattutto ai giovani, la distanza fisica, la propria residenza in un contesto territoriale come il nostro può davvero fare la differenza, perché ci sono ragazzi che impiegano un'ora e mezza per arrivare da casa propria a Trento, e ci sono ragazzi di Trento che impiegano due ore per arrivare a Londra con i voli low cost. È una bella differenza in termini di opportunità. Allora, non potendo ridurre fisicamente le distanze, abbiamo cercato di facilitare i flussi, facilitare le comunicazioni, quindi dire: guarda che anche tu che abiti in un contesto molto periferico, in montagna, quindi però ti portiamo degli strumenti per poter essere connesso, per poter anche pensare a delle iniziative di lavoro, occupazionali, cioè mettere un po' in moto la creatività. Ecco, non è che si è pensato alla fibra ottica perché così anche dal paese più lontano si può prenotarsi il volo Ryanair in pochi secondi, ma anche dicendo, guardate ragazzi, che si può fare con questi strumenti. Probabilmente in questo momento, se c'è qualche amministratore locale di altre regioni all'ascolto, si sta mordendo i gomiti perché dice: per forza, con l'autonomia finanziaria che avete voi. Beh sì, dunque, no, certo, questo ovviamente c'è, è inutile negarlo. È anche vero però che soprattutto negli ultimi anni, diciamo, il delta rispetto alle altre regioni si è decisamente abbassato. Abbiamo anche molte competenze in più, e quindi ovviamente le risorse aggiuntive rispetto ad altre regioni che abbiamo sono tutte occupate in queste risorse, però è anche un'opzione di dove spendere questi soldi, dove investire. A noi sembrava davvero che questo fosse un settore strategico importante per il futuro del Trentino. Ci dice, solo per curiosità, quanto è stato investito per cablare la provincia di Trento? Siamo nell'ordine dei 150 milioni di euro circa. No, però questi sono investimenti che poi hanno, io penso, un ritorno potenzialmente molto alto. E se non economico, sicuramente sociale. Grazie ad Alberto Packer, presidente della provincia di Trento, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, e visto che al Festival dell'Economia si parla di sovranità e conflitto, parleremo di come le organizzazioni di estrema destra si muovono nel mondo di Internet. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci per l'ultima parte di Vota Antonio. Dunque, come si diceva, una puntata speciale, una puntata che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando durante il Festival dell'Economia di Trento. Il tema del Festival dell'Economia di Trento è sovranità in conflitto. E dunque ci sembra giusto anche parlare di un libro che è appena uscito e che ha molto a che fare con tutto questo, perché se il conflitto, diciamo così, tra le sovranità comporta anche una rinascita del nazionalismo, è giusto raccontare anche che cosa succede in rete dal lato dei movimenti di estrema destra. È uscito di recente un libro edito dal Mulino che si intitola Il web nero. Abbiamo in linea con noi l'autrice, che è Manuela Caiani. Buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Allora, è una ricerca che si occupa appunto di come si muovono, no, queste organizzazioni, un libro scritto insieme a Linda Parenti, come si muovono queste organizzazioni sulla rete. Le chiedo innanzitutto di dirci, perché insomma sentiamo un'italiana, lei in realtà lavora all'estero, diciamo che è una sorta di cervello in fuga, per così dire, no? Sì, questa ricerca, io lavoro all'Istituto per gli Studi Avanzati di Vienna, e questa ricerca è stata finanziata quindi è stata finanziata dalla Banca Nazionale Austriaca. È una ricerca comparata che io ho proposto, che guardava appunto, l'obiettivo era quello di guardare alle trasformazioni odierne della comunicazione e mobilitazione politica dei gruppi di estrema destra nell'era di Internet, e questa ricerca l'ho proposta comparativa, ho incluso sei paesi europei. E ha incluso anche gli Stati Uniti, tra l'altro, in questa ricerca. Allora, le chiedo innanzitutto di darci, naturalmente coi tempi brevi della radio, come ovvio e per quanto possibile, perché la ricerca è molto approfondita, di darci un minimo di mappa di tutto questo, insomma un'idea di massima di come si configurano questi movimenti, soprattutto sulla rete. Sì, possiamo iniziare dicendo che appunto questa ricerca è nata proprio dalla necessità di colmare un vuoto empirico, diciamo che nella mia disciplina, appunto scienze politiche, ma soprattutto nel settore di studio di politica e internet, c'era, vale a dire, ci sono studi esistenti sul movimenti collettivi e internet e come l'utilizzo di internet per fare una politica differente. quasi tutti però focalizzati sulla sinistra, quindi dal movimento No Global alle recenti... Quindi diciamo che questo è il primo studio di questo genere. Quindi, allora, stiamo iniziando partendo, manca qualcosa. L'estremismo di destra in generale, con i movimenti di destra populista, non sono studiati nel loro attivismo in rete, forse per un po' di pregiudizio, pensando che non fossero abbastanza modernizzati, e invece la ricerca appunto ha mostrato tutt'altro. I gruppi utilizzano sapientemente il web, in particolare i loro siti web, per una serie di funzioni politiche, dalla socializzazione al reclutamento di membri, alla propaganda, diffusione di idee, all'organizzazione di mobilitazioni. Allora, le chiedo innanzitutto di dirci qual è l'uso prevalente che fanno della rete, e mi riferisco in particolare ai gruppi di estrema destra italiani, naturalmente in particolare italiani, però vogliamo parlare anche degli altri, anche come funziona dalle altre parti. Qual è? C'è un uso prevalente, cioè viene usato più per la propaganda, più per il contatto, per lo scambio di idee, per quanto esecrabili spesso possano essere? Sì, ecco, ma dai dati emersi dal nostro studio potrei rispondere a entrambe le funzioni che ha menzionato, vale a dire, queste organizzazioni usano largamente il web come strumento per propagandare la propria ideologia ed esprimere le proprie opinioni, e questo sia rivolto a un pubblico interno, quindi per tenere diciamo alta l'identificazione con il gruppo, sia rivolto ad un pubblico esterno di potenziali simpatizzanti, quindi vengono utilizzati i siti web per disseminare informazioni riguardo anche alle diverse questioni sociali, politiche ed economiche, e ovviamente il punto di vista dell'organizzazione su di esse. Lei accennava un elemento importante: serve anche alla costruzione di un'identità di questi gruppi, la rete, sostanzialmente. Sì, quello che è emerso è che soprattutto per questa funzione vengono utilizzati forum di discussione. In quasi tutti i siti web campionati abbiamo ritrovato poi il relativo forum di discussione, forum dove appunto le discussioni sopra gli argomenti più disparati, non necessariamente legati all'ideologia del gruppo, però tengono appunto viva un'identità, e soprattutto tendono a tracciare anche i confini, no? Fra il noi e il loro, e fra delineare i confini del buon attivista. Quindi questo riguarda sia a livello di contenuti che a livello di comportamento. Quindi questo, ecco, quello che è emerso in questo senso è che il web può aiutare un settore che è organizzativamente comunque molto differenziato e frammentato, questo in tutti i paesi, non solo in Italia, a formare un'identità collettiva coerente e unificante. Ecco, ecco, questo è uno snodo che mi sembra interessante e che le chiederei in conclusione, insomma, di questa parte di trasmissione di approfondire. Ossia, quanto il web possa aiutare questi gruppi a costruire un'identità non solo all'interno del singolo gruppo, ma anche un'identità, se vogliamo, transnazionale. Sì, ma sicuramente, ecco, la mia risposta è di nuovo sì, anche se anche i dati di questa ricerca vanno presi con un grano salis, vale a dire, poi non possiamo dire niente del passaggio effettivo fra questa realtà virtuale e poi la realtà appunto offline, quindi non sappiamo poi quanta l'identificazione emotiva creata sul web poi si trasferisca in un maggiore attivismo nelle azioni offline, siano esse elettorali piuttosto che appunto di mobilitazione non convenzionale. Sicuramente quello che abbiamo visto è che tramite il web questi gruppi si collegano fra di loro. Molte volte ci sono link a siti web amici, sempre appartenenti per lo più alla stessa area, non solo nel paese stesso, quindi in Italia questa attività di networking l'abbiamo trovata molto, ma anche spesse volte verso gruppi di appunto destra populista in altri paesi europei, o addirittura link transoceanici, quindi fra l'area europea e l'area statunitense. Questo è un qualcosa che a livello, parliamo di link ovviamente fra siti web, sì, però sicuramente può essere preso come una proxy di vicinanza ideologica, affinità, e magari può questo trasformarsi poi in un contatto, una collaborazione fuori dal web, in un contatto offline. Grazie Emanuela Cagliani per la sua partecipazione. Il libro, ve lo ricordo, è pieno di cose e in 8-9 minuti quanti ne abbiamo fatti naturalmente non si può approfondire tutto. Si chiama Il Web Nero, è edito dal Mulino e naturalmente lo trovate se l'argomento vi interessa. Autrici Emanuela Cagliani e Linda Parenti. Chiudiamo così questa puntata di Voto Antonio. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia qua dal Festival dell'Economia di Trento e Davide Ciocia che di fatto consente la messa in onda di tutto ciò. Ci risentiamo naturalmente con Voto Antonio sabato prossimo, se no con 9 in punto lunedì c'è Gianfranco Fabi, io torno martedì. Italiani!